giovedì 28 novembre di questa giornata di Radio Zanardi. Noi cominciamo sempre come al solito con Radio Bullet. Buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Le vittime nel mondo per le mine antiuomo sono raddoppiate dal 2013. Stati Uniti creato una falsa università per stanare gli studenti stranieri, clandestini. Iran, Human Rights Watch accusa Teheran di insabbiare il numero dei morti durante le proteste. Iraq, i manifestanti danno fuoco al consolato iraniano. Libano, da oggi in sciopero ad oltranza i benzinai. Israele non restituirà più alle famiglie i corpi dei palestinesi uccisi dai soldati israeliani. E decine sono i giordani arrestati in Arabia Saudita senza accuse. Vietnam, le famiglie piangono le 39 vittime trovate in un camion nel Regno Unito il mese scorso, mentre disperano per trovare i soldi per pagare il viaggio dei morti verso casa. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo dal Cile. Lo sciopero generale convocato dal tavolo di unità sociale ieri ha visto 43 saccheggi, 792 arresti, di cui 237 persone proprio per saccheggio, 108 poliziotti e 28 civili feriti a Santiago. Brasile, massima allerta maltempo per le forti piogge che hanno colpito Salvador e potrebbe provocare frane e alluvioni. Finora si sono registrate 8 inondazioni di terreni, 42 di immobili, 7 frane, 12 minacce di smottamento. Le autorità in alcune zone invitano la gente a spostarsi e mettersi al sicuro. Colombia e sindacati hanno segnato il loro secondo sciopero generale in una settimana, dove decine di migliaia di persone si sono riversate nelle strade per protestare contro il governo del presidente di destra, Duque. Il trasporto pubblico è stato in gran parte sospeso, i negozi e uffici chiusi nel centro della capitale, dove ormai da 7 giorni si protesta. Alcuni manifestanti hanno sbattuto pentole e padelle. Grandi manifestazioni si sono svolte anche a Cali e Medellin. Siamo oltraggiati da così tanti maltrattamenti e tanta corruzione, ha dichiarato David Martinez, un impiegato pubblico di 50 anni che si è unito alla marcia a Bogotà vestito da clown. Sono vestito da clown perché è così che ci vede il governo. La gente manifesta in Ecuador, Cile, Bolivia, ora tocca a noi dire no, ha detto Martinez all'AFP. Stati Uniti, Donald Trump alla vigilia della festa del ringraziamento e dopo aver graziato due tacchini, twitta una foto in cui appare in stile Rocky con tanto di petto nudo e muscoli che non si capisce bene a chi vuole mostrare. L'evidente fotomontaggio. Nel mirino c'è la Cina oppure il suo impeachment o anche i narcos messicani. Trump, Balboa, per ora solo scatenato l'ironia dei social. Salgono a 250 gli studenti arrestati da gennaio per aver violato le leggi sull'immigrazione. È avvenuto durante un'operazione dove l'ICE, l'agenzia che si occupa della lotta all'immigrazione clandestina, ha creato una falsa università nel Michigan, la Farmington, per studi informatici e tecnologici. Molti degli arrestati sono già stati deportati in India. Gli studenti erano arrivati illegalmente negli Stati Uniti con un visto per studenti, ma quando l'università di Farmington si è rivelata in seguito una creazione di agenti federali, hanno perso il loro status di immigrazione dopo essere stata chiusa a gennaio. Aveva agenti sotto copertura che fungevano da funzionari universitari. Dei circa 250 studenti arrestati con accuse amministrative, quasi l'80% ha scelto la partenza volontaria e ha lasciato gli Stati Uniti, mentre il 20% hanno ricevuto un ordine di espulsione e il 10% sta contestando la propria espulsione. Si ritiene che la falsa università abbia raccolto milioni di dollari dagli studenti ignari. Le mail ottenute dalla Free Press all'inizio di quest'anno hanno mostrato in che modo la falsa università ha tratto gli studenti all'università, il cui costo medio era di circa 12.000 dollari in tasse l'anno. Stai ascoltando Radio Bullets. Iran. Secondo Amnesty International, i morti per la dura repressione delle proteste sono almeno 143. Invece Human Rights Watch ha accusato l'Iran di aver deliberatamente insabbiato le morti e gli arresti durante la repressione di queste proteste. Questa settimana le proteste sono scoppiate il 15 novembre, ore dopo l'annuncio di un forte aumento dei prezzi del carburante. Sono emerse notizie di morti e arresti quando le forze di sicurezza sono state schierate per reprimere i manifestanti e sono diventate violente lente in alcune aree con dozzine di banche, pompe di benzina e stazioni di polizia bruciate. I funzionari iraniani hanno incolpato la violenza di strada grazie a intervento di criminali sostenuti da realisti arcieri, nemici dell'Iran come Stati Uniti, Israele, Arabia Saudita. Il vice direttore del Medio Oriente del gruppo, Michael Page, ha criticato l'Iran per aver finora rifiutato di fornire il bilancio delle vittime. Restiamo ancora in Iran perché il ministro degli esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha confermato che Teheran sta ospitando una delegazione di leader talebani per discutere del processo di pace in Afghanistan. Per lavorare per la pace ci riuniremo con tutti i gruppi politici afghani e la delegazione talebana è qui per lo stesso scopo, ha detto Zarif. Le parole del ministro arrivano il giorno dopo che il portavoce talebano Zabiullah Mujahid ne aveva dato notizia su Twitter. La spinta arriva sullo sfondo di un approccio vacillante degli Stati Uniti nel coinvolgere i talebani. A settembre l'amministrazione del presidente Trump aveva annunciato la sospensione dei negoziati inconcludenti con il gruppo militante. La rottura ha spinto i talebani ad avvicinarsi anche a Russia e Cina, altri due arcinemici degli Stati Uniti nella regione. Iraq, i manifestanti nella città santa di Najaf si sono mossi nelle ultime settimane diverse volte verso il consolato iraniano e così hanno fatto anche ieri, questa volta però lo hanno bruciato completamente. Lo staff iraniano illeso fuggito dalla porta sul retro quando le fiamme sono divampate. 6 manifestanti sono morti e 35 altri sono rimasti feriti quando la polizia è intervenuta per impedire alle persone di entrare nell'edificio. Nessuno è entrato, ma i manifestanti sono riusciti ad arrampicarsi, rimuovere la bandiera iraniana, rimpiazzarla con quella irachena e poi acceso il fuoco. Ora in città c'è il coprifuoco. La rabbia verso gli iraniani è perché Teheran appoggia il governo attuale e rigetta le domande di riforme chieste dai manifestanti e anche le elezioni anticipate. Najaf è un importante luogo sacro per gli sciiti, ospita 2 consolati, quello iraniano e quello del Bahrain. Turchia, la procura di Istanbul ha chiesto una condanna per associazione terroristica per Taner Kilic, ex presidente, attualmente presidente onorario di Amnesty International Turchia, accusato di aver legami con la rete dell'imam Gulen, rischia 15 anni di prigione. Il bilancio totale delle vittime delle mine terrestri è raddoppiato nel 2018 rispetto al 2013 a causa dei conflitti in Afghanistan, Siria e Mali, principalmente causa del maggiore uso di mine antiuomo improvvisate usate da gruppi armati come lo Stato Islamico dell'Iraq e il Levante. Rappresentanti delle nazioni colpite, delle organizzazioni non governative, dei paesi donatori si sono riuniti a Oslo questa settimana per discutere su come raggiungere un obiettivo dichiarato di liberare il mondo dalle mine antiuomo nel 2025. Le mine antiuomo hanno ucciso o ferito circa 6.897 persone nel 2018, secondo un rapporto del Landmine Monitor della campagna internazionale per vietare queste mine antiuomo. Circa il 71% delle vittime sono civili e di questi più della metà minori. Libano, comincia oggi lo sciopero delle stazioni di servizio a tempo indeterminato, ha detto un rappresentante sindacale ieri, in quella che è considerata la peggiore crisi economica del paese negli ultimi decenni. Le proteste scoppiate il 17 ottobre hanno aumentato la crisi economica, aggravando quella valutaria che ha colpito gli importatori e aumentato i timori per il rincaro dei prezzi. Giordania, sono decine i giordani detenuti senza accuse in Arabia Saudita. Le famiglie accusano il governo giordano di non fare abbastanza, motivo per il quale stanno protestando per fare pressioni sul regno per il rilascio dei loro cittadini. Sono 30 i giordani arrestati tra febbraio e ottobre 2018 senza essere stati processati. Lo scorso ottobre le famiglie dei detenuti hanno lanciato una campagna sui social media intitolata Detenuti senza accuse in Arabia Saudita, in cui hanno pubblicato immagini e storie sui prigionieri politici giordani nel regno, invitando il loro governo a intervenire per portarli a casa dalle loro famiglie. Martedì il Ministero degli Esteri della Giordania ha dichiarato di essere in contatto con le famiglie dei detenuti. Sono state organizzate visite e contatti telefonici. Per la terza volta consecutiva Hamas ha cancellato la marcia del ritorno nella striscia di Gaza che si teneva lungo il confine di recinzione con Israele. L'inviato del Qatar ha incontrato funzionari di entrambe le parti sull'onda di una possibile intesa tra Israele e Hamas. Ieri le autorità israeliane hanno informato i pescatori di Gaza che a tutte le barche è consentito di estendere la propria area di pesca fino a 15 miglia nautiche dalla costa. All'inizio di questa settimana il vice inviato del Qatar, Khaled Al-Ardan, è arrivato a Gaza per una visita durante la quale il suo governo ha annunciato che saranno dati stipendi mensili di $100 alle famiglie più bisognose. Intanto, il neo ministro della difesa israeliano Naftali Bennett ha detto ieri che l'esercito non restituirà più i corpi dei palestinesi uccisi dai soldati israeliani indipendentemente dalle loro affiliazioni politiche. Bennett ha parlato con i responsabili della sicurezza israeliana e il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato che la questione sarà discussa per l'approvazione del governo. La politica israeliana di trattenere i corpi dei palestinesi è iniziata con la sua occupazione in Cisgiordania nella guerra nel Medio Oriente nel 1967. Uno di questi casi è Mashur Aruri, un palestinese ucciso nel 76, il cui corpo è stato riconsegnato 34 anni dopo. Era uno dei 317 palestinesi e altri cittadini arabi cui corpi sono stati negati dalle autorità israeliane. Per i palestinesi è una pratica disumana e degradante che viola il diritto internazionale. Egitto. Una corte militare ha condannato a morte Hisham Ashawi, considerato il jihadista most wanted, ritenuto colpevole di essere coinvolto in diversi attentati di alto profilo, tra cui uno avvenuto nell'Egitto orientale che ha provocato 22 soldati morti. Ashmawi venne catturato in Libia l'anno scorso dalle forze del generale Haftar, il comandante rinnegato dell'esercito libico nazionale che ha stretti i rapporti con il governo egiziano. E a questo proposito andiamo in Libia. Gli scontri tra le forze del governo di accordo nazionale del premier Sarraj e quelle del generale Haftar hanno portato alla chiusura del giacimento petrolifero di El Fel, gestito dall'ENI e dalla compagnia nazionale libica nel sud della Libia. Afghanistan, 15 civili, tra cui 8 minori, sono stati uccisi quando il furgoncino ha colpito una mina piazzata sulla strada nel nord, nella provincia di Kunduz, 2 i feriti. E restiamo in Afghanistan perché sono stati rilasciati 2 assistenti sociali che erano stati arrestati per aver rivelato abusi su centinaia di bambini in 6 scuole grazie alle pressioni internazionali e all'intervento del presidente afghano. Abusi perpetrati da una rete di pedofili. Bangladesh, nel 2016, durante un attentato a Dhaka, un caffè, morirono 22 persone, tra i quali 9 italiani. 7 militanti dell'organizzazione radicale locale della Jamaat al-Mujahideen Bangladesh sono stati ieri condannati a morte. Vietnam, hanno lanciato un crowdfunding le famiglie che hanno ricevuto 16 corpi dei 39 migranti vietnamiti trovati morti in un camion nell'Essex il mese scorso. Tutti hanno bisogno di soldi per riportare a casa i loro cari. I restanti 23 corpi sono bloccati in uno stato di limbo poiché le famiglie non possono permettersi di riportarli indietro. Le autorità avevano chiesto alle famiglie di prendere in considerazione l'idea di accettare le ceneri dei loro parenti, essendo più economiche che far volare un corpo e una bara per mezzo mondo, ma la cremazione va contro i tradizionali funerali in Vietnam e la maggior parte delle famiglie vuole i corpi dei propri cari. Inizialmente le famiglie hanno pensato che il governo inglese avrebbe pagato le 2.200 sterline per rimpatriare ogni corpo, ma poi si è capito che Hanoi avrebbe dovuto pagare il conto. I funzionari ufficiali hanno annunciato che avrebbero prestato denaro alle famiglie per il volo, soldi che però andavano restituiti in 30 giorni. Molte di queste famiglie si erano già indebitate per pagare i viaggi dei loro cari quando erano in vita, avevano chiesto soldi a parenti, strozzine, banche, immaginando che una volta nel Regno Unito e trovato lavoro sarebbero stati in grado di estinguere i debiti mandando soldi a casa. Cina, un operaio edile è stato trovato con centinaia di tenie nel suo cervello dopo aver mangiato carne di maiale, si legge sul certificato medico. Il 49enne dello Shenzhen, nella Cina orientale, è stato portato in ospedale dopo aver subito convulsioni durante la notte dopo un mese di vertigini e mal di testa. E restiamo in Cina, che ha reagito furiosamente minacciando imprecisate conseguenze dopo che il presidente Trump ha firmato una legge varata dal Congresso che sostiene le proteste per la democrazia di Hong Kong. E da parte nostra anche per oggi è tutto, grazie di essere stati con noi, vi aspettiamo domani con una nuova raffica di notizie. Something new, anyway, anyhow, anywhere I choose. elezioni sono in pieno stile, come dire, Gentiloni, Renzi e Salvini, perché danno esattamente continuità a quella visione per cui l'Europa è sicura se e solo se le frontiere esterne sono chiuse e in questo modo si possono aprire quelle interne, e cioè esiste Schengen e la libera circolazione all'interno dei paesi dell'Unione, o meglio all'interno dei paesi dell'area Schengen. Questa cosa è essenzialmente un abominio, perché se uno pensa in termini di libera circolazione delle persone, lo fa in una visione globale. È anacronistico nel 2020 pensare che il continente europeo sia autosufficiente. Questo lo dico da un punto di vista complessivo. Evidentemente, rispetto alla questione migratoria, c'è un elemento in più, e c'è l'elemento in cui, come ci dimostra la vicenda della Turchia, la pelle dei migranti continua a essere terreno di battaglia, terreno di scambio, su una battaglia geopolitica, su una battaglia di potere. Altre agenzie hanno rilanciato come titolo il soft power nelle dichiarazioni di Ursula von der Leyen, e cioè l'intenzione di agire e lavorare su un controllo in termini appunto morbidi, che sia un controllo di regolamentazione, un controllo che amministrativizza il flusso attraverso le frontiere dell'Unione Europea e anche all'interno. Questo ci lascia presupporre uno scenario molto ambivalente, ambiguo, di quello che sarà il prosieguo della legislazione europea in termini di migranti. La morte verrà all'improvviso, avrà le tue labbra e i tuoi occhi, ti coprirà d'un velo bianco, addormentandosi al tuo fianco. Nell'ozio, nel sonno, in battaglia, verrà senza darti avvisaglia. La morte va a colpo sicuro, non suona il corno né il tamburo. Madonna che in limpida fonte ristori le membra stupende, la morte non ti vedrà in faccia, avrà il tuo seno e le tue braccia. Prelati, notabili e conti, sull'uscio piangeste ben forte. Chi bene condusse sua vita, male sopporterà sua morte. Straccioni che senza vergogna portaste il cilicio, la gogna, partirvene non fu fatica, perché la morte vi fu amica. Guerriero che in punta di lancia dal suolo d'Oriente alla Francia di stragi menasti gran vanto, e fra i nemici il lutto e il pianto. Di fronte all'estrema nemica non vale coraggio o fatica, non serve colpirla nel cuore, perché la morte mai non muore. Non serve colpirla nel cuore, perché la morte mai non muore. Down to memory lane. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. 9:26 minuti di questo 28 novembre, venerdì. Ricordiamo innanzitutto che giovedì venerdì, per l'appunto, 29 la sera, offside in via in Pescarolo, vicino alla radio, ci sarà questa grande cena di Radio Città Fujiko con un menù ricco, bella compagnia, bella volontà, insomma un'occasione come sempre per stare insieme e finanziare un emittente indipendente, e Dio sa quanto è fatica rimanere tali e quanto sudore e soldi si vogliono. Quindi tutti invitati, telefonate al 051 34 0051 34 6458 per iscriversi, così possiamo dire ai cuochi di aggiungere un posto a tavola. Detto questo, torniamo sull'argomento che abbiamo già trattato anche nella prima parte di Radio Danardi, cioè la elezione della Ursula von der Leyen e le sue prime dichiarazioni, che le abbiamo sentite commentate da Marco Sirotti del Melting Pot Europa, quindi un commento che arriva da sinistra. Non è facile cercarne nella nostra rassegna stampa quei giornali che abbiamo sul tavolo, ma quando qualcosa c'è di questo genere subito ve lo segnaliamo. Il Corriere invece parla della lite sul fondo salva stati. Von der Leyen non tiene sì a Strasburgo, priorità al clima e a Venezia, che detta così sembra che sia Greta Thunberg. Gualtieri difende l'intesa con l'Europa, bagarra la Camera. Di Maio, perplessità anche nei 5 Stelle. Quindi questo è il quadro, ma il Manifesto commenta da Bruxelles: von der Leyen non tiene la fiducia e promette un'Europa più verde. La squadra, volti nuovi tranne i pilastri. Cioè, quindi di fatto quelli che contano sono sempre quelli. E allora speriamo che ci sia un cambiamento, ma insomma è difficile pensare. Anche Giannelli pensa che non sia un grande cambiamento nella vignetta del Corriere, perché c'è la von der Leyen con la scorta, che sono la Merkel e Macron, quindi l'asse franco-tedesco ancora che detta le regole. Comunque l'Europarlamento approva la nuova squadra, 461 sì e a von der Leyen, record di commissari donne, 12 su 27, Gentiloni più occupazione. Dice: sono molto felice, un'orata per la maggioranza schiacciante che è frutto del lavoro di molte persone. Questo è quello che racconta il Corriere. Il manifesto abbiamo già visto, le defezioni tra i grillini e tanti dubbi sul piano green servono dei soldi. E il dubbio che abbiamo in tanti, io mi metto tra questi, che belle parole in omaggio a, anche ai tempi, poi quando si va nella concretezza, il braccio si fa corto e il petrolio si fa lungo. Comunque, riforma del salvastati, questo è l'altro tema che incendia anche il Parlamento. Gualtieri, ministro dell'economia, non si tocca, e allora in qualche modo un accordo è già stato pattuito evidentemente. Il ministro scavalca il Parlamento, questo è il giornale che dà voce alla destra su questo MES, il fondo salvastati. Bagar, Lega, PD, Meloni, alto tradimento. Ed è curioso comunque i sovranisti che dicono no all'Europa, poi quando si dice che l'Europa non deve cacciare dei soldi, invece loro dicono no, loro devono cacciare dei soldi lo stesso, quindi con sempre col cappello in mano, uno strano sovranismo. Comunque, la nuova commissione del targato von der Leyen spacca i 5 Stelle, ancora una volta i 5 Stelle si frantumano, Parlamento e Unione Europea, tra i 5 Stelle due contrari, due astenuti, dici sì, il dissidente Corrao è come Juncker. Grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti. Il morso del freddo sta attanagliando Bologna e noi leggiamo la rassegna stampa nei giornali in edicola oggi. E il primo piano del Sole 24 Ore, giornale della Confindustria, ci presenta la nuova commissione dell'Unione Europea e il sì del Parlamento con più voti delle attese. La presidente Ursula von der Leyen presenterà a breve i progetti di investimento sostenibili da 1.000 miliardi. La nuova Commissione europea ha ottenuto la fiducia al Parlamento europeo 6 mesi dalle elezioni di maggio. Il voto ha mostrato 461 a favore e 157 contrari, 89 astensioni. Come diceva Alfredo, i 5 Stelle erano un po' fra gli astenuti, un po' fra i contrari. La maggioranza è stata più ampia delle tese. Il nuovo esecutivo comunitario, che intende fare un generoso piano ambientale, nuovo motore di crescita economica, entrerà in carica il 1° dicembre. Lo scrutinio è venuto dopo un dibattito a Strasburgo, durante il quale la signora von der Leyen ha pronunciato un discorso spesso prevedibile alla presenza dell'intero collegio. La nuova presidente ha notato le priorità digitali del clima, tema esistenziale l'ha definito, e ha osservato che il pianeta ha bisogno della leadership europea, che in un mondo scombussolato nel quale molti paesi agiscono in modo unilaterale, la gente manifesta in molte città. L'Europa deve essere una potenza responsabile. L'ex ministra tedesca ha quindi giocato la carta dell'orgoglio europeo, ricordando tra le altre cose la rivoluzione di velluto scoppiata esattamente 30 anni fa, e più precisamente dinanzi alle sfide del momento, alla rivoluzione digitale e la transizione climatica. Ha spiegato che nei prossimi 5 anni la nostra Unione si adopererà per una trasformazione della società e dell'economia, e la cosa giusta da fare e sarà semplicemente da mettere in atto. E ancora sulle pagine della stampa, il clima è una questione esistenziale, nasce così l'Europa verde di von der Leyen, le incognite, la coalizione che l'ha sostenuta è andata oltre il perimetro della maggioranza, uscita dalle urne, liberali, popolari, socialisti avevano 444 voti. In primavera l'ex ministra tedesca presenterà una proposta per riformare anche Dublino per l'immigrazione. E appunto il suo discorso davanti agli eurodeputati, l'ex ministro tedesco della difesa ha messo in fila le priorità e le grandi sfide che l'Europa ha davanti a sé, ha insistito molto sul concetto di commissione geopolitica oltre che sul suo cavallo di battaglia, il Green New Deal, un impegno per la salute del nostro pianeta, i nostri cittadini, ma anche le nostre economie. Per von der Leyen deve diventare la nostra nuova strategia di crescita per ridurre le emissioni e nel contempo creare nuovi posti di lavoro. E c'è la parola del giorno, prendiamo lo spunto dal Pinzimonio e dalla stampa, prendiamo la parola del giorno a cura di Letizia Tortorello, che è proprio la Commissione UE, l'organo esecutivo dell'Unione Europea, è composta da un delegato di ogni Stato membro e viene chiamato commissario, ha un presidente, un numero variabile di vice e si occupa di proporre iniziative legislative che devono essere approvate dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea e recepite dai parlamentari nazionali. È responsabile dell'attuazione delle decisioni politiche e vigila sul rispetto dei trattati. Il 1° dicembre la Commissione, guidata dalla tedesca Ursula Von der Leyen entrerà in carica sostituendo il lussemburghese Jean-Claude Juncker. Dopo alcuni rinvii dovuti alla bocciatura dei commissari di Francia, Ungheria e Romania, ieri il Parlamento ha votato e abbiamo sentito come ha votato, e ricordiamo che venerdì c'è anche lo sciopero del clima. Il Messaggero: rissa sul debito, ipotesi rinvio. Gualtieri e la Camera difende l'intesa sul fondo salva stati, di cui la rissa di cui abbiamo letto, dicendo non modificabile ma non firmata. L'è anche peggio, cioè, allora non bisogna più neanche più firmarle, sono cose ineluttabili che, ma comunque lasciamo perdere. Legge e Fratelli d'Italia all'attacco, Conte, Di Maio per lo slittamento, allarme sui conti da un allegato nascosto. Questo è il Messaggero di Roma. Mi sposto invece al Mattino di Napoli, perché vado sul fronte del lavoro, perché vorremmo che questo fosse comunque il primo titolo dell'agenda della politica, o i primi, con l'ambiente, la pace, insomma quelli che sono, che contano e che meno invece vengono chiacchierati dai giornali. Salvi i lavoratori di Almaviva, Whirlpool parte la trattativa, quindi siamo nel sud, infatti il Mattino di Napoli si occupa del meridione, principalmente va da sé. Lavoro, Napoli respira, confermati 147 contratti da call center, Regione Invitalia ponte un piano per la fabbrica delle lavatrici, questo è quanto. Per rimanere invece in versione meridionale, mi sposto allora a un altro foglio del sud, alla Gazzetta del Mezzogiorno. Mittal, trattativa di acciaio. I legali degli indiani e dei commissari, basi per un accordo d'acciaio, quindi per estrarre la destrata del settore dei metalli. Il PM di Milano, attendiamo gli sviluppi, rinviata quindi l'udienza, cioè la magistratura aspetta se interviene un accordo extragiudiziario, che sarebbe la cosa migliore. Ilva dice anche l'economia del Corriere della Sera, c'è tempo per un accordo. Il Tribunale rinvia l'udienza al 20 dicembre, Morselli, che è la CEO, adesso non si più, non si più né padrone, ma neanche più General Manager, si dice CEO, come che si cambia spesso il nome, è più difficile individuarli. Comunque Morselli dell'Arcio garantisce la continuità, questo è la Ilva, di garantire la continuità, non si capisce dove. Ma procedendo poi con la pagina del Manifesto, invece vado alla grande evasione fiscale, perché leggo il Manifesto per l'appunto, la prima pagina, il primo titolo, la grande evasione. Profitti stellari, slalom dei giganti del web per aggirare le tasse nei paesi in cui operano. Secondo Mediobanca, dal 2014 elusi 74 miliardi grazie alle imposte agevolate, fuga nei paradisi fiscali. In Italia il fatturato è 2,4 miliardi a fronte di 64 milioni di euro versati. Questa è la dimostrazione di cosa stiamo parlando, un titolo che poi rientra anche in pagina 5 all'interno, naturalmente con lo sviluppo delle tematiche già indicate in prima pagina. Quindi Mediobanca dice dal 2014 elusi 74 miliardi, insomma ci stanno tre finanziarie ancora un po', grazie a imposte agevolate e anche paradisi fiscali. Questo è quello che arriva dal Manifesto, il tema ripreso non a caso anche da Contropiano, giornale comunista online, perché i giornaloni questa cosa la guarda con una certa distrazione, perché insomma è un peccato veniale per quelli che dicono che il mercato è bello. Per i giornali invece di sinistra l'evasione fiscale è uno scandalo. E allora Stefano Porcari scrive: l'Italia è una pacchia per le multinazionali, fanno miliardi, pagano spiccioli. E appunto si riparte da questo report di Mediobanca. Poi a livello mondiale quasi la metà dell'utile ante imposte dal Websoft viene tassato in paesi in fiscalità agevolata, cioè paradisi fiscali, con un conseguente risparmio fiscale oltre 49 miliardi nel periodo compreso tra il 2014 e il 2018. Non si capisce perché, ad esempio, Amazon non deve pagare le tasse in Italia per quel che produce o che commercializza, per essere più usati dalla cittadella meccanizzata di Piacenza, per dirne una, però invece no, paga le tasse da dove più gli conviene. Il giornale è scandalizzato perché invece non da questo, ma porti, banche ed energia, le mani della Cina sull'Italia. La strategia di Xi Jinping con diplomazia, accordi commerciali, il dragone si mangia aziende e capitali. Beh, sì, è vero, ma questo non è che faccia molto diverso anche i multinazionali nordamericane. Evidentemente c'è uno schieramento a prescindere dal giornale verso la sudditanza americana. Le imprese possedute dalla Cina sono circa 650 per 8,4 miliardi del prodotto interno lordo. È ovvio che la Cina si sta imponendo come grande padrone commerciale e finanziario internazionale. Il nostro paese inglobato nella via della seta preoccupano molto gli USA, per forza. È una guerra tra titani. Tutto questo invece vede il colpevole. Chi è colpevole? È sempre il lavoratore. Certo. Cioè, comunque giri, tutte le strade portano a Roma. Quindi si apre il Corriere di Milano e piovono pietre tutto sulla classe operaia e lavoratrice. Il metro frena, 12 feriti, altro sciopero. Ora basta. Quindi si prende la palla bassa, un po' di cronaca per dire basta con gli scioperi. Giana, ci sta ostaggio di minorante? No, siamo ostaggio visto della Cina, siamo ostaggio dei giganti del web, non dei lavoratori del metro, fino a prova contraria. Però il mondo è una piramide rovesciata nell'informazione. Un errore umano, la brusca frenata sulla linea rossa della metropolitana della fermata Biscaglia non ha fatto nulla di anomalo, ma è l'ultima di una serie di cui la procura di Milano sta indagando e riaccende le polemiche sulle politiche del comune, così come quelle che arrivano alla vigilia dell'undicesimo sciopero dell'ATM dell'anno a Rigo Giana, che è uno super partes, è il padrone dell'azienda. Quindi quando dice cosa ne pensi dello sciopero? Sono mica tanto d'accordo, dice il padrone originale. Infatti dice serve una riforma, che significa l'ennesima riforma anti-sciopero. Ma vediamo che qui c'è un problema di un fatto di cronache che si collega allo sciopero con un volo pindarico del Corriere. Sì, e ancora il resto del Carlino che apre appunto con questa nota: noi tartassati, noi gente comune, i colossi del web sono impuniti. Da Google ad Amazon in Italia hanno pagato solo 64 milioni di imposte, questo è il rapporto dal 2014, elusi 74 miliardi. E c'è Raffaele Marmo che apre con un corsivo un oltraggio che non si può più tollerare. I numeri hanno la loro forza, le parole possono ricorrere e accompagnare ma non sostituire. Bene, il fisco italiano ha incassato solo 64 milioni di euro da 15 giganti globali del web e del social con filiali nel nostro paese. E se scorriamo le pagine, pagina 2, appunto ci fa sempre il Carlino la cronaca di come stanno le cifre. E i colossi di web in Italia hanno un fatturato di 2,43 miliardi con 9.840 occupati. E così nel mondo sono 850 miliardi di fatturato e 2 milioni di dipendenti. In Italia guadagnano 2,4 miliardi, ma allo Stato versano 64 milioni, questo è quanto. E l'OCSE fa anche un articolo sul welfare nel mondo. In Italia si va in pensione con l'età anagrafica di 67 anni, la media OCSE è 64. E ci sono gli uomini che vanno a 63,3 e le donne a 61,5. Nel futuro la previsione per un giovane 22enne appena assunto sarà 71 anni la pensione, come in Olanda e in Estonia, quando la media OCSE sarà di 66 anni. E si parla ancora di fondo salva stati, sempre nelle pagine del Carlino. Il fondo salva stati crea la bagarre in aula. Il presidente Roberto Fico ha sospeso la seduta. I dubbi dei 5 Stelle sul MES, vediamo se serve al paese. Si è sfiorata la rissa nell'aula della Camera con una trentina di parlamentari coinvolti ed incendiare gli animi il MES, il fondo salva stati. L'opposizione insorge alle parole del ministro dell'economia Roberto Gualtieri, di cui prima in un'audizione Fiume a Palazzo Madama aveva risposto ai deputati e senatori che no, il testo non si può più rinegoziare, è chiuso. Ancora la stessa notizia, ce la porta il Sole 24 Ore e ci dà appunto questa notizia. Dice il governo chiede più flessibilità in cambio del sì al nuovo MES. L'Europa e l'Italia non ha alcuna convenienza a ricorrere al fondo salva stati, tanto vale approvarne la riforma per ottenere politiche fiscali meno asfissianti sugli investimenti pubblici. Spetterà a noi a convincere i mercati che le spese per investimenti fanno scendere il debito pubblico grazie alla crescita. Per quanto riguarda il mondo dei partiti, direi di partire dal Riformista. giornale proposto da, recentemente in edicola, Diario sicuramente renziana, Sansonetti dopo giornali legati a vicende calabre non detto chiare, insomma, per usare un giro di parole. Oggi invece sposato la Leopolda e Renzi, e infatti apre con l'inchiesta di Firenze Open, ecco tutte le balle dei PM e giornali. Quindi si diventa il Perry Mason, l'avvocato delle cause impossibili, questo è il Riformista, mentre altri giornali veramente la cantano diversamente. Partiamo dalla destra. Bomba su casa Renzi, nuovi guai giudiziari. Naturalmente parliamo di politica, anche se dovrebbe essere un'altra cosa, ma purtroppo sembra che ultimamente la politica si giochi su queste vicende. L'accusa, villa da 1,3 milioni sui soldi di un finanziatore, reso dei conti al governo. Quindi certamente questo ciclone che si abbatte sull'area renziana, anche sul giglio magico, come si diceva un tempo, difficilmente non potrà avere conseguenze anche sulla tenuta della maggioranza. Soldi ai partiti, quindi si parla di finanziamenti illeciti. Il governo treme, scoppia la bomba villa Renzi. Nuova grana per leader d'Italia Viva che attacchi PM, nessun legame tra Open e il prestito di 100.000 euro per la casa. Nuove perquisizioni nella Guardia di Finanza, l'ex dimora della famiglia Puccini ristorata con appena 90.000 euro, l'acquisto per 1,3 milioni a metà con la moglie, giallo sui fondi. E il caso viene così anche descritto dai scenari politici da Sabrina Cottone, sempre del giornale, il caso Open sulla prescrizione, perché si gioca sulla prescrizione per vedere se si può liquidare un caso o quell'altro, è veramente... non trovo le parole, buona fede e rispetto per le toghe. Ma Renzi ieri ha avuto un'uscita che ricorda molto quelle del Berlusconi, dei tempi d'oro di Berlusconi, è un po' meno per noi. Come fondare un partito non lo decide la magistratura, Fondazione Open, questo è il manifesto, Matteo Renzi contrattacca, l'inchiesta è una ferita alla democrazia. Non lo decide la magistratura, ma secondo Tommaso Nencione non lo decide neanche uno. Il mercato, i proprietari di tutto, anche dei partiti, questo è il mercato politico, questo è la leadership e il leaderismo. Mentre il Fatto Quotidiano, chiaramente come suo costume, ci intinge il pane in questo sugo di inchieste, Open, il banco Matalotti e i soldi alla villa di Renzi, l'inchiesta che chiude un'epoca. E chiude anche, anzi apre una porta, Open, la vignetta di Vauro con il secondino che fa entrare Renzi in una cella. Quindi questo è. E poi c'è un garantista segnalato dalla cattiveria di Spinoza. Caso Open, non giudico e non condanno, non è il mio lavoro. L'ha detto Salvini mentre chiedeva l'arresto di Carola Rackete. Questo è evidentemente è garantista con la casta, questo per usare termini alla Lega. Comunque, poi ci sono tutto l'assemblement, non indagato peraltro, ma che fa capire qual era il retroterra economico, filosofico di pensiero renziano, versati 300.000 euro dai vertici di Menarini, non indagati, oltre ai fratelli al capo del gruppo farmaceutico, soldi da Onorabo, Mobi, British Tobacco e Gavio di Autostrade, quello stesso Gavio poi che trema un po' nei viadotti, insomma. Allora gli ex renziani, quelli rimasti nel PD, rarossiscono, sembra Berlusconi, no comment. La Polverini se la ride, parla proprio come se fosse Silvio. È bello che poi lei è di Silvio, quindi è stupendo, no? È come bambini nel cortile quando litigano, l'hai fatto anche tu? No, l'hai fatto prima tu. Questo è. I suoi vecchi discepoli in imbarazzo alza le mani senza dire nulla. Dunque, c'è Stefano Ceccanti, il problema non è Renzi, si decidono come si finanziano i partiti politici. Mi sembra che su questo argomento abbiamo già fatto 18 referendum, mi sembra di ricordare, però vedi che non basta mai. Ma sulla prescrizione di Dem Aranghi Compatti, non è ammissibile che il processo non finisca mai, questo è quello che naturalmente con queste vicende di cronache, assume un altro sapore. Beh, insomma, Renzi e l'inchiesta di Firenze sembra un caso presente in tutti i quotidiani, persino il Carlino ci parla di questa cosa, dice: dopo Open scoppia il caso della villa Renzi, una casa nel piazzale Michelangelo, una società in Lussemburgo nel mezzo, c'è Matteo Renzi accerchiato dalle inchieste giudiziarie e ora investito anche da un nuovo caso per la villa comprata alcuni mesi fa a Firenze, ha beneficiato di un prestito di 700.000 euro elargito dalla famiglia Maestrelli, imprenditori toscani che secondo le informazioni informative della Guardia di Finanza hanno sostenuto una fondazione open oggetto dell'ultima indagine della Procura di Firenze. E poi c'è un'ironia di Casini che dice: a pensar male spesso ci si indovina, diceva Giulio Andreotti che a pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si indovina. Io di solito penso bene, ma francamente il dispiegamento di forze, il clamore mediatico e le coincidenze temporali mi portano a ritenere quantomeno strana l'iniziativa dei magistrati sulla Fondazione Open. Peraltro oggi sono chiari a tutti gli effetti perversi che si stanno producendo dopo l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, che è sempre stato un fattore di garanzia democratica, lo dice appunto Ferdinando Casini. E l'ex segretario si lamenta con i magistrati e dice: sono stato scambiato per il mostro di Scandicci, ma l'Associazione Nazionale Magistrati fa una replica e dice: basta con gli attacchi ai giudici. E il Consiglio Superiore della Magistratura, che ha avviato una pratica a tutela dei magistrati attaccati da Renzi, prese di posizione che in Italia Viva sono state interpretate invece come un attacco frontale nei confronti di Renzi. Dal quartier generale renziano è arrivato il commento del deputato romano Luciano Nobili. Italia Viva dirà sì alla commissione, purché questa si occupi anche della Casaleggio Associati. Massima trasparenza non solo su donazioni, ma anche su consulenze e collaborazioni a enti pubblici italiani, ma anche cinesi. E vedi Beppe Grillo, che negli ultimi tempi si è prodigato in grandi viaggi. Ancora La Stampa: l'inchiesta della Procura sulla casa di Renzi, a Lotti la carta dell'Open. E La Stampa fa il punto sui vari personaggi, le varie figure con le foto, cioè le foto dei protagonisti. C'è Luca Lotti, da sempre vicino a Renzi, entra nel board della Open e sarebbe uno degli usufruttuari delle carte di credito della fondazione. Marco Carrai, imprenditore, ex membro del consiglio della Open, è indagato nell'inchiesta fiorentina per il finanziamento illecito per dei partiti, avrebbe fatto da tramite. Alberto Bianchi, avvocato fiorentino, è stato presidente della Open fino alla chiusura del 2018 ed è stato indagato per traffico e influenze di illeciti. E le toghe, l'Associazione Nazionale dei Magistrati, dal senatore: parole gravissime, ma non ci intimidiscono. Si respinge da parte dell'ANM con fermezza l'ennesimo attacco all'autonomia e indipendenza della magistratura e esprime piena solidarietà ai magistrati fiorentini e definisce, referendosi a Renzi, pur senza citarlo, gravissime le dichiarazioni di un esponente delle istituzioni che per reagire ad un'iniziativa giudiziaria attacca personalmente i magistrati titolari dell'indagine, esprimendo indignazione se il tentativo è di intimidire i magistrati è e resterà vano. Ancora una nota appunto sulle pagine del Sole 24 Ore su questo, su questi aspetti, anche qui ci sono i curriculum dei vari protagonisti, da Carrai a Serra, Alberto Bianchi, e la Guardia di Finanza da un finanziatore 700.000 euro per la villa, l'ex premier dice: ma no dai, è solo un prestito. E c'è scontro con Bonafede e il Consiglio Superiore della Magistratura. Naturalmente l'altro sisma, cosa che non si può usare guardando l'Albania, comunque terremoto politico, è quello che attraversa i 5 Stelle, che per risonanza attraversa tutta la maggioranza è Conte, con 5 Stelle che vanno in tutte le direzioni. Una direzione, quella sinistrorsa, è quella di Daniela Preziosi, raccontata dal Manifesto, con Cataldo vicepresidente dell'Europarlamento, e ora di un 5 Stelle collegiale, chi preferisce la Lega lo dica. Insomma, per capire qual è il clima che si respira dentro i 5 Stelle bisogna tornare al Quartetto Cetra. Nella vecchia fattoria, ia ia o, dove c'è lo zio Tobia, ia ia o, c'è un bel cortile, un orticello, un gran recinto col cancello, c'è vicino la ferrovia, ia ia o. Nella vecchia fattoria, ia ia o, quante bestie a zio Tobia, ia ia o, c'è la capra, capra, capra, nella vecchia fattoria, ia ia o, attaccata a un carrettino, ia ia o, c'è un quadrupede piccino, ia ia o, l'asinelli, o, nel, o, nel, c'è la capra, capra, capra, nella vecchia fattoria, ia ia o, tra le casse ferri rotti, ia ia o, dove i topi son grassotti. Ia ia o, c'è un bel gatto. Miau. Gatto. Miau. Gatto. Miau. L'asinello. Oh. Nel. Oh. Nel. C'è la capra. Capra. Capra. Nella vecchia fattoria. Ia ia o. Così grasso e tanto grosso. Ia ia o. Sempre sporco il più non posso. Ia ia o. C'è il maiale. Iale. Ia ia iale. C'è un bel gatto. Miau. Gatto. Miau. Gatto. L'asine. Oh. Nel. Oh. Nel. C'è la capra. Capra. Capra. Nella vecchia fattoria. Ia ia o. Poi sull'argine del fosso. Ia ia o. Alle prese con un osso. Ia ia o. C'è un bel cane. Cane. Cane, c'è un maiale, iale, iale, c'è un bel gatto, gatto, gatto, l'asinetti, oh, nel, c'è la capra, capra, capra, nella vecchia fattoria, ia, ia, oh, tra le bestie c'è un trattore, ia, ia, oh, quando gira che rumore, ia, ia, oh, c'è la tromba, tromba, tromba, c'è un bel cane, cane, cane, c'è un maiale, iale, iale, c'è un bel gatto, gatto, gatto, l'asine, oh, nel, c'è la capra, capra, capra, nella vecchia fattoria, ia, ia, oh. Ma che, stiamo diventando tutti matti? Ia, ia, oh. E allora guardiamo le elezioni regionali anche in Calabria verso il no, l'intesa col PD, ultimatum sulla restituzione, questo sempre i 5 Stelle, il capo in TV, il 99% degli attivisti vuole questo, ma agli eletti, mail agli eletti che non pagano, questo è quanto. E poi invece andiamo alle sardine. Figura, concetto nuovo e maturato da Bologna per questa elezione partita dall'Emilia Romagna, ma che sta dilagando in tutta Italia. Editto delle sardine, non andiamo ai talk, stile Rete 4. Dicono le sardine che la politica dell'odio e dell'aggressività si è sviluppata anche attraverso alcuni salotti televisivi creati ad hoc per fornire ai propri telespettatori un dibattito sterile, parziale e demagogico. Per questo scegliamo con cura la trasmissione, quindi non andranno mai a Rete 4, dove appunto si sloganano termini come culattone, terrone, negro, consenziente, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il Fatto Quotidiano, da quando ha imparato che i 5 Stelle si presentano in Emilia Romagna, un po' bastona le sardine, perché ha paura che portino voti a quei pochi che rimangono ai 5 Stelle. Oggi la bostonatura di Tommaso Montanari, ma le sardine sanno perché vince Salvini, sì che lo sanno perché vince Salvini, ma detto questo, per l'Emilia Romagna invece trovo questo candidato Bonaccini, manifesti verdi e senza partito, speriamo che il verde non sia solo sui manifesti, ma insomma, niente logo del PD, questo è appunto perché ultimamente il logo del PD non porta un gran bene neanche i dirigenti nazionali, e colore dominante, sono i primi manifesti di Bonaccini in Emilia-Romagna, il verde, racconta il Corriere, per l'ambiente, ha detto lui, per molti una mano tesa ai 5 Stelle. Sì, sul Carlino c'è un'intervista, un intervento del senatore responsabile della cultura di Forza Italia, Andrea Cangini, che dice: Bologna ancora una volta come laboratorio politico nazionale, ma laboratorio di cosa, si chiede, e il fatto è noto nella piazza che tenne a battesimo il Movimento 5 Stelle, nuotano ora le sardine. Un déjà vu, una nemesi? Un déjà vu, una nemesi, un segno di sfiducia del PD o è solo antisalvinismo? Nessuno, credo che nessuno, nessuna di queste chiavi di lettura sia sufficiente per spiegare il fenomeno. Prendo un attimo al chiodo la mia attuale veste politica per indossati i piani d'azzardo di un'interpretazione, matrici culturali ben diverse, il qualunquismo grillino, il sovranismo salviniano nascono per colmare medesimo vuoto, un vuoto della politica, la globalizzazione e la valorizzazione della finanza. E conclude dicendo: credo che le sardine siano un epifenomeno e che la loro veste di sinistra sia una sovrastruttura. Credo che dopo 30 anni di sistematico svuotamento delle istituzioni e di auto lesionistica retorica anticasta, nel profondo della società stia covando un sentimento nuovo, una nuova consapevolezza, il ritorno alla politica. Forse mi illudo, ma voglio pensare che questo sentimento possa farsi azione se Come spero, il popolo italiano verrà messo nelle condizioni di esprimersi con un referendum demagogico e dannoso taglio lineare del numero dei parlamentari votato per ignavia dai partiti nei giorni in cui il Conte 1 viveva proprio l'inesorabile crepuscolo. Questa sì che sarebbe una rivoluzione culturale furiera di un cambiamento radicale. Il giornale porta avanti la famosa non notizia. Cioè, non è vero che le sardine si candidano nel PD, questo è. Emilia, il dilemma delle sardine sulle candidature. Smentiscono di presentarsi con Bonaccini, ma spunta un ex assessore PD. Che dice, beh, le sardine, uno, l'ex assessore PD, Colombo potrà presentarsi, ma cosa c'entrano le sardine? E poi si segnalano insulti da Meloni in un qualche Facebook per dire, ah, non sono così simpatiche. Ma a parte questo, allora, smentisce questo sardine nelle candidature PD il segretario generale Paolo Calvano. Nessuna forza politica dovrebbe mettere il cappello su quelle piazze. Però si domanda astutamente Giuseppe De Lorenzo, perché negare se non bolle nulla in pentola? Questo è condannato a prescindere. Quindi vediamo cosa dice Mattia Sartori, finito il leader delle sardine. Non abbiamo intenzione di candidarci, eppure perché negare, continua. E allora dice quant'altro, nei corridoi circola anche un piano B, nei corridoi, no? Ci potrebbe essere appunto il nome di Andrea Colombo, consigliere PD a Bologna, ha un profilo ambientalista e amici in comune. Cioè, io ho un amico negro, questo è il concetto, per cui sarebbe la non notizia. Detto questo, andiamo invece a chi non si presenterà col centro-sinistra e l'altra Emilia Romagna. Sentiamo il candidato Stefano Lugli che spiega il perché di questa decisione. Abbiamo scelto di correre con una lista autonoma in continuità con quello che abbiamo fatto in questi 5 anni all'opposizione della giunta Bonaccini, perché per un giudizio di merito negativo rispetto alle politiche adottate in questi anni dal centrosinistra in consiglio regionale. Non è arrivato alcun segnale di discontinuità dalla maggioranza uscente rispetto alle proposte che noi riteniamo più divisive e sbagliate, come il consumo di suolo, come il piano dei trasporti, come l'autonomia, come tutto ciò che non è stato fatto sul lavoro, e quindi noi proseguiamo il nostro cammino di alternativa e ci candidiamo appunto anche questa volta alle prossime elezioni regionali, come abbiamo fatto del resto 5 anni fa. Cosa rispondete a quanti, di fronte all'ipotesi che possa vincere la Lega in regione, vi accusa di, come dire, in un certo senso sottrarre voti a Bonaccini e quindi rendere possibile la vittoria della destra? Ma io a questi rispondo che la Lega è il nostro principale avversario e nemico, ma dico anche che se è cresciuta è perché sono state fatte in questi anni politiche sbagliate, e questa Lega, questa destra non la si sconfigge algebricamente unendo partiti diversi tra di loro, ma mettendo in campo una seria alternativa di governo per questa regione, a partire appunto dai contenuti. La coalizione di centrosinistra raccoglie soggetti politici che vanno da Calenda a Renzi, raccoglie e sostiene il sostegno di repubblicani, socialisti, fino a Casini, Più Europa, Pizzarotti, per cui è davvero un calderone in cui la sinistra può risultare schiacciata, mentre invece c'è la necessità di offrire un punto di vista alternativo. Noi ci rivolgiamo a tutti quegli elettori che guardano con sospetto appunto a una alternativa fra il centrosinistra di moderato, il centrosinistra moderato di Bonaccini e appunto la destra razzista e impresentabile della Borgonzoni. Ci rivolgiamo a costoro proponendoci appunto con un'alternativa credibile per il prossimo consiglio regionale. Quali sono i punti programmatici su cui fate più leva, diciamo? Innanzitutto c'è il tema del lavoro, che è il tema principale su cui basiamo la nostra attività, perché anche in una regione ricca come la nostra ci sono comunque sacche importanti di lavoro povero, precario, sottopagato, sfruttato. Crediamo si debba porre un argine, mettere fine al lavoro somministrato, al lavoro in appalto, che sempre più riguarda interi distretti produttivi del nostro territorio. Pensiamo al distretto delle Canne nel Modenese, alla vicenda di Trattista, alla vertenza Castelfrigo, tutti i settori in cui le cooperative spuri spatroneggiano, e contro questi è stato fatto davvero davvero molto poco. C'è tutto il tema della transizione ecologica, della riconversione ecologica della nostra economia. Vediamo anche in queste ore di allerta rossa, di allerta maltempo, come sempre più il nostro territorio sia davvero molto fragile. Le proposte messe in campo dalla regione con un piano dei trasporti che parla ancora ancora di autostrade, una legge urbanistica che parla ancora di consumo di suolo, credo che siano davvero proposte inadeguate ad affrontare la sfida ambientale che abbiamo in corso. E questo è Stefano Lugli, candidato per l'Alta Emilia Romagna alle prossime 21 elezioni. Lui citava il dato ambientale e dei disastri anche sulle infrastrutture, che ci porta all'altra domanda. Prima abbiamo chiesto al padrone del metro di Milano cosa ne pensa di scioperi, che non è molto d'accordo. Ora chiediamo alle autostrade come sono le autostrade. E allora chi controlla il controllore, il 16°, giornale ligure, i viadotti sono sicuri. Cadono per così. Via le concessioni, un danno all'Italia. E loro si chiamano concessionari, sono invece lì, diventano improvvisamente l'Italia. Mentre questi dicono noi siamo sicuri, dico anche dalla stampa, no? Sì. Sì, è una notizia che prende la prima pagina della stampa. L'amministratore delegato Tommasi dice: non cerchiamo scuse e siamo pronti a fare tutte le verifiche che saranno necessarie. Beh, allora meglio tardi che mai, Comunque, due nuove indagini a Genova, lavori chiesti dai PM mai fatti, quindi le verifiche forse, i lavori richiesti dai PM mai fatti. Autostrade Ligure inchietta su almeno 4 viadotti, un altro fascicolo per falso. Quindi la procura aveva chiesto test su Percetti, Fado, Letimbro, Bisagno e Veilino, cose mai fatte. Nel frattempo il personaggio è Totti, governatore della Liguria, è sempre dal Fatto Quotidiano, con Totti commissario al cubo che difende il cemento. Il governatore invoca l'ambiente, ma la sua giunta sarà ricordata anche per la legge che ha dato una sforbiciata ai parchi naturali. Poi tanto chiedono anche la Gronda, perché tra le montagne di Genova e il mare ci sono circa 7 km al massimo, dentro c'è una città, 6 ferrovie, 4 autostrade, sarà anche una Gronda, e poi ci si lamenta se arrivano delle frane. Ma parlando di autostrade c'è la storia del grande scippo, che fece i ricchi Benetton. L'Italia, no, il Benetton. I veri colpevoli del declino. La famiglia veneta non ha speso nulla per prendersi un'azienda con redditività stellare, un regalo senza pari. Ma vediamo che il regalo è stato un Natale bipartisan, perché da D'Alema a Berlusconi tutti hanno garantito accordi capestro, investimenti scarsi ma pagati a peso d'oro a danno di tutti. Quindi questo ci riporta allora al fatto di cronaca tremendo: il viadotto chiuso dai PM non era mai stato controllato, non compare mai nelle carte di Spea, nuova inchiesta per omissioni di lavori. Sì, è ancora la stampa che prosegue appunto sull'omissione dei lavori e su altri 5 viadotti si rischiano cedimenti improvvisi. La procura di Genova apre una nuova inchiesta, controlli addomesticati, in corso accertamenti su un altro sacco di ponti. C'è un reportage che parla dei camionisti, autotrasportatori in coda per ore in autostrada e nei termini i lavoratori incrociano le braccia, i camionisti e portuali viaggi dimezzati, stiamo arrivando al collasso. E c'è il 5 Stelle che a Genova accelerano per togliere la concessione alla società Autostrade, il governo prova ad accelerare sulla revoca della concessione alla società Autostrade. L'ultimo allarme della procura di Genova sulla mancanza di controlli sui viadotti ha convinto il premier Giuseppe Conte che è arrivato il momento di tirare le somme. L'istruttoria in corso da oltre un anno, una stretta non semplice perché l'operazione presenta parecchi problemi di tipo legale. Luigi Di Maio non ha dubbi, insiste sulla necessità di revocare le concessioni, la procedura va avanti come ha detto anche Conte. Ma guardiamo per esempio il comparto dei treni con le privatizzazioni, anche questi se nevica, piove, i treni sono sempre fermi, ma avendo privatizzato i treni in Italia sono fermi, ma Trenitalia in Spagna ad alta velocità, quindi gli interessi italiani, i famosi sovranisti, no? Però qui non si fa tanto sentire quando c'è di mezzo la pecunia, la vil pecunia. Veniamo invece a qualche pagina presso del giornale che sto tabellando, a questo titolo: Italia, l'allerta rossa continua, 6 nubifragi ogni 24 ore. La piena del Po fa paura in Emilia e in Veneto, rischio valanghi in Piemonte, mareggiate in Toscana. In Liguria non piove così tanto dal 53, danni per 400 milioni. Si vede che il giornale comincia a accorgersi che esiste un cambiamento climatico. L'ha negato in lungo e largo che erano follie, catastrofismi, speculazioni politiche della sinistra, dei verdi, ecologisti, dei centri sociali e quant'altro. Adesso comincia a dire che è vero. E allora, confermato anche da Paolo Virtuani del Corriere della Sera, il novembre più piovoso di sempre. In 21 giorni d'acqua a Milano, i 1800 mm in Savona, è record di precipitazioni negli ultimi 10 anni, 5 con piogge super. L'autunno anomalo, il clima molto secco, registrato a settembre, temperature più alte della media stagionale. Insomma, titoli che si ripetono frequentemente ogni anno, è più caldo e più piovoso di quello precedente. Però la notizia allora è quella che ci dall'extraterrestre, la danza della pioggia. L'Italia è il paese europeo più esposto alla tropicalizzazione del clima. Il territorio è destinato ad essere flagellato da piogge torrenziali a intermittenze imprevedibili, alternate lunghi periodi di siccità. L'area del Mediterraneo è nella morsa dell'emergenza climatica. Mentre alcuni paesi soffrono per troppa pioggia, altri simultaneamente la invocano per la scarsità idrica, e quindi l'immagine di un deserto, la desertificazione avanza. Danni incalcolabili per le attività umane, a cominciare dall'agricoltura, ovviamente. Comunque, alluvioni causate dal Mediterraneo, clima troppo alto, questo. Conferma l'extraterrestre. Questo è l'antidoto? L'antidoto non è qualche dichiarazione della von der Leyen, scortata da Macron e della Merkel, e con tutto l'ottimismo possibile guardiamo con maggiore attenzione questo. Domani, già citava Andrea prima, torna in piazza la Green Generation, lo conferma il manifesto con Gianni Sandro Merli, i Fridays for Future verso il quarto sciopero globale per il clima, manifestazione in 130 paesi, ieri a Roma protesta contro l'ENI. Con lo slogan Block the Planet, i giovani spingono la protesta oltre i cortei. Ma in Brasile, visto che è uno dei punti più dolenti del quadro in generale, l'Amazzonia è una savana, ma Bolsonaro arresta gli ambientalisti. Beh, è più facile arrestare gli ambientalisti che arrestare il cambiamento climatico. Tra il 2018 e il 2019 la deforestazione è cresciuta del 65%, non del 15%, sembra già gravissimo, del 65% rispetto al periodo precedente. Sì, siamo passati ai temi ambientali, iniziamo dalla legge di bilancio, in arrivo il piano plastica, ma elite sulla tassa al governo, i ritocchi dei ministeri e sale la dota di ricerca e proroga del CICS e del bonus verde, dalle auto aziendali alla sugar tax destinata a essere ridotta una parte del settore agroalimentare, passando per il pacchetto degli enti locali, le modifiche del governo in rampa di lancio per rivisitare la manovra valgono complessivamente 1,3 miliardi e due terzi, quasi 800 milioni dovrebbero essere assorbiti dal significativo alleggerimento della plastic tax annunciato dal ministro dell'economia Roberto Gualtieri, che però è considerato insufficiente appunto da Italia Viva. La vera notizia sulla plastic tax non è la rimodulazione, ma il fatto che resti ancora in manovra. Noi abbiamo presentato un emendamento per abolirla perché crediamo che nessuna tassa debba essere imposta a un paese in recessione, questo diceva Italia Viva. Ancora si parla di ambiente e di termovalorizzatori, c'è il rapporto di Altesis, che è un organismo dell'Unione Europea, che dice se manca un livello adeguato di trattamento dei rifiuti saranno falliti gli obiettivi dell'Unione Europea al 2035. Presentazione oggi a Roma, industria del riciclo sempre più globalizzata e dinamica. E senza nuovi impianti di trattamento dei rifiuti urbani o almeno interventi di revamping degli impianti esistenti, dal 2029 comincerà una progressiva riduzione della capacità di trattamento dei rifiuti, che fra 15 anni arriverà a un dimezzamento delle attuali capacità e nel 2040 a una riduzione di due terzi. Questo significa vendere i rifiuti all'estero e magari in Norvegia piuttosto che in Finlandia riescono a monetizzare queste operazioni. L'ultimo allarme che lancerà oggi a Roma il rapporto annuale di Altesis sull'industria del waste management in Italia. Seppur si raggiungessero buoni risultati sul fronte del riciclo e della raccolta differenziata, gli obiettivi dell'Unione Europea al 2035, 65% di recupero, ricordiamolo, della materia e limite del 10% di smaltimento in discarica. Ancora un'altra notizia arriva da Roma, l'AMA, l'azienda del nettezza urbana, faccia immediatamente chiarezza sui presunti comportamenti scorretti da parte di alcuni dipendenti dell'azienda. Questo è un post di Facebook che la sindaca di Roma Virginia Raggi ha preso posizione sul servizio delle Iene, sui fannulloni della raccolta rifiuti di AMA nella capitale. L'inchiesta La Grande Monnezza, firmata da Filippo Roma e Marco Chipinti, ha svelato che molti operatori girano la città facendo di tutto tranne che raccogliere rifiuti. Il caso più eclatante è quello degli operatori di una delle ditte che dovrebbe raccogliere accogliere per conto dell'AMA la differenziata delle attività commerciali, ristoranti, negozi, bar e tavole calde, invece l'operatore scende dal furgoncino e beggia col palmarino il codice a barre 160-200 volte a notte, come se avesse ritirato i rifiuti, ma i rifiuti non li ha ritirati. Parliamo ancora dell'aumento della temperatura del clima e da The Lancet, un giornale inglese, capiamo che i bambini saranno i più colpiti. Un bambino che nasce oggi vivrà in un mondo di almeno 4 gradi più caldo rispetto alla media preindustriale, scrive appunto Lancet. La crisi climatica incide sulla salute umana dell'infanzia, dell'adolescenza, dell'età adulta alla vecchiaia, ma i bambini sono sicuramente i più colpiti. Nel suo rapporto la rivista britannica cita alcuni esempi per quanto riguarda la produzione agricola. Probabilmente l'aumento della temperatura influirà negativamente sulla quantità e la qualità delle coltivazioni. Alcuni dati recenti sul mais e sulla soia sembrano confermarlo. Se questa tendenza continuerà, i bambini potrebbero soffrire di conseguenze della malnutrizione, particolarmente gravi per chi è in fase di crescita. Un altro esempio sono le malattie infettive, alle quali i bambini sono particolarmente sensibili. Secondo gli esperti, il clima più caldo faciliterà la trasmissione del virus della dengue e altri patogeni trasmessi dalle zanzare. La crisi climatica potrebbe anche modificare la temperatura e la salinità marina delle acque costiere, favorendo la diffusione del batterio del colera. Le ondate di calore sono la manifestazione più diretta del cambiamento climatico e anche in questo caso la salute dei bambini potrebbe essere più a rischio di quella degli adulti. Dal rapporto emergono anche alcuni fattori positivi, come i 48 paesi che hanno deciso di collaborare per ridurre le conseguenze negative dell'emergenza climatica sulla salute delle persone. Hai citato la Norvegia, l'ecologia che respira petrolio, il paese che è il primo in tutti gli indici di sviluppo umano e sostenibile si basa sul petrolio, una contraddizione che interroga e sprona gli ecologisti norvegesi. Oggi la crisi ambientale sta costringendo le compagnie petrolifere l'economia a rimediare i danni creati da 50 anni di corsa all'oro nero. Nel frattempo abbiamo in Africa, la flora tropicale africana rischia di estinguersi. C'è una sparito il 31,7% delle piante africane che non è un prenda pompa anche per gli animali come l'uomo. Invece nel mare gli antidepressivi dispersi in mare disturbano i pesci. È il Prozac, io sono un pesce sega. Una ricerca australiana guidata dall'astrologo Bob Wong della Monash University di Melbourne ha dimostrato che il comportamento dei pesci cambia se ingeriscono farmaci antidepressivi, perché si scarica tutto nel mare, no? Nella grande cloaca, non solo plastica. A tonnellate finiscono nelle acque di scarico e poi arrivano nei fiumi, nei mari, e quindi questo ha delle pesanti ripercussioni sui pesci, da delle battutacce. Su di noi invece Zai e PD marea di polemiche. Su che cosa? Il Gazzettino parla del Mose, perché il Mose è al Senato. Allora si rinfacciano le accuse, no? Corrotto tu, no? Allora leggiamo. I Dem attaccano il governatore Zaia, che fino a prova contraria era della cordata di Galan. E lui replica: io estraneo lo scandalo, loro arrestati. Quindi che sono della cordata di Orsini, quindi ce n'è per tutti e per chiunque. Comunque, se l'extraterrestre oggi apriva con la danza della pioggia, noi ci contrapponiamo il sole di Albano. Perché? Ma perché questa notte? Alle ore passano mai. Ma perché ogni minuto dura un'eternità? questo era il primo Albano, e poi sono seguiti altri Albani. Comunque, questo è Il Sole del cantante pugliese. A seguire invece la cronaca, prendiamo questo dato che arriva da Bologna: Cavallini è colpevole della strage ergastolo, andiamo al processo per la strage di Bologna, la più grave strage fascista nella storia italiana del dopoguerra, la richiesta della procura contro l'ex NAR. Ecco i quattro chiodi che lo incastrano: con la Mambro, con Fioravanti, con Ciavardini. Quindi poi da Carlo Solircio Gelli, dice Carlino, tutte le piste alternative vengono segnalate, ma forse non sarà tutta la verità, ma quello che c'è è verità, accertato anche in tribunale. Vengo all'internazionale, naturalmente partendo dal sisma albanese, continuano le scosse pesanti, e allora ne abbiamo... Attualmente il bilancio è a 39 morti, ma sono ancora molti dispersi, molti feriti, quindi è destinato, ahimè, ad aggravarsi. Ma il Corriere, forse in omaggio al Natale, ci dà un'immagine positiva. Elisabetta Rosaspina infatti scrive: serbi, kosovari, albanesi, il sisma unisce gli ex nemici. Gare di aiuti da tutta la regione, il bilancio delle vittime quindi 34, in realtà 39 già aggiornato. Tra le vittime c'è anche Cristi Pesti, fidanzata del figlio del primo ministro albanese Edi Rama. Questo è quello che arriva dall'Albania. Da Malta, arrestato il braccio destro del premier, l'inchiesta sull'assassinio della giornalista Daphne Caruana Galizia va ai livelli massimi. Ormai è chiaro che coinvolge non solo questo ricco imprenditore, ma anche il premier Georges Muscat. La gente infatti si contrappone con una scritta nei cartelli: killer, assassino. Questo è quello che arriva dal Malta. Girando pagina, Manifesto, vengo invece alle situazioni di assoluta instabilità sociale. Niente da mediare. In Libano la rivoluzione senza leader. La protesta investe l'intera classe dirigente. L'assenza di capi da demonizzare sconcerta. Alla riconquista degli spazi pubblici dopo le feroci privatizzazioni degli anni 90. Ancora una volta la parola che fa cascare tutto è la parola privatizzazione, che è stato un po' il mantra degli ultimi decenni, e adesso siamo col culo per terra, per usare un eufemismo finanziario. Invece vado in Argentina, perché il femminicidio è un crimine di Stato, lo dicono quelli che hanno dato il vita, o non una di meno. Voci da corteo contro la violenza sulle donne in Argentina: negli ultimi 10 mesi un omicidio ogni 32 ore. Bisogna iniziare da un'educazione sessuale laica e con una prospettiva femminista. Questo. In Colombia, sesto giorno di paro contro il governo, mobilitazione nazionale contro il governo, ma di questo non parla nessuno perché la Colombia è filoamericana, quindi lì le piazze non contano. In Bolivia, dove invece continua il golpe, e Amnesty International chiede che venga tolta l'immunità alle forze di polizia decretata dalla golpista Agnes del centrodestra che governa il paese, Femministe Unite contro il golpe, divise su Evo, sul giudizio su Evo Morales. Nonostante l'accordo di pacificazione, la repressione non si ferma, conferma il Manifesto. Ma l'America Latina è sconvolta da una crisi che sta cambiando tutta la fisionomia degli stati. Il dossier ci riporta in Uruguay, che era una terra in qualche modo stabile, invece Uruguay fine di un'era, per un pugno di voti il potere passa a destra, ahimè. E un riconteggio, secondo il Fatto Quotidiano: dopo 15 anni il Frente Amplio si prepara alla sconfitta di misura contro il patto nazionale di Luis Lacalle, domani i risultati definitivi, un pugno di voti, quindi può sempre sperare un miracolo finale. Anche la Martinez, leader di questo fronte di sinistra, era in caduta libera. Il promesso ritorno di Mujica come ministro e la paura della dittatura hanno frenato la disfatta di Martinez. Sì, per quanto riguarda la stampa, apprendiamo che da Londra è la settimana nera di Jeremy Corbyn in vista delle ulteriori elezioni. Alessandra Rizzo dice che Corbyn sta facendo un sacco di gaffe e anche accuse di antisemitismo. I Tory vendono la sanità agli USA. Ieri ha cercato di riprendere in mano la campagna elettorale dei conservatori e di avere messo il servizio sanitario nazionale sul tavolo nei negoziati per l'accordo commerciale post Brexit con gli USA. E invece, appunto, a proposito di USA, c'è una fotonotizia dove Trump grazia al tacchino del giorno del ringraziamento. Ricordiamo che il giorno del ringraziamento è il 30 novembre. E ancora sulle pagine del Carlino c'è tutte le star di Hollywood che fanno parte del fronte anti-Trump, anti-Tycoon. Robert Redford dice: è un dittatore, vada via. E Donald Trump si traveste da Rocky in un fotomontaggio sui social. Tra i candidati democratici c'è Bloomberg, la discesa in campo di Michael Bloomberg, il fronte democratico. Adesso ha in lizza per le primarie presidenziali 5 sindaci tra ex e attualmente in carica. Non era mai successo nella storia politica americana. Oltre a Bloomberg, ex sindaco di New York, figurano Pete Buttigieg, sindaco in carica di South Bend, Indiana, Bernie Sanders, ex sindaco di Burlington nel Vermont, Cory Booker, ex sindaco di Newark nel New Jersey, e Julian Castro, ex sindaco di San Antonio in Texas. Avrebbero potuto essere 7 se non ci fossero stati dei ritiri. Tra questi c'è quello attuale, il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio. E siamo veramente alle battute finali, 10 e 23 minuti primi. Dopo di noi ci sarà Rock and Roll High School e ancora qualcosa. Ci congediamo quindi andando a San Leonardo, perché da oggi a sabato si svolgerà la prima edizione del Cielo Corto, il film festival su cortometraggi indipendenti. La nostra Alessia Mondella ha intervistato le organizzatrici Gaia Brauzi e Maddalena Bianchi. Con questo ciao, a risentirci. Allora, i principali eventi del festival, che appunto si terrà dal 28 al 30 novembre al Teatro San Leonardo, sono principalmente due. Il primo è un evento serale che si terrà il 29 novembre al Teatro San Leonardo. È un evento in collaborazione con un Movies. Verrà proiettato e sonorizzato dal vivo il filmato Le Quattro Stagioni. È un filmato che racconta la storia di Bologna negli anni 60 e 70, e appunto questo filmato ci è stato dato da un Movies e verrà sonorizzato live da Guglielmo Pagnozzi. Mentre il secondo evento off che ci sarà nel festival sarà il Closing Party. Questa volta ci spostiamo al di là della città, diciamo delle mura della città, e andremo direttamente al Micasa, dove per diciamo da mezzanotte in poi, dopo le premiazioni, ci sarà questa party di chiusura, dove saranno tre DJ, un DJ set che alle 5 del mattino ci faranno divertire e salutarci, insomma, tutti gli ospiti che ci verranno a trovare, tutte le persone, insomma, che hanno partecipato e noi che abbiamo lavorato. Come la rassegna si è trasformata in festival? Come siete riusciti a raggiungere questo obiettivo? Semplicemente dopo 4 anni di rassegna ci sembrava giusto e ci sembrava la prosecuzione necessaria del nostro lavoro e del percorso che stavamo facendo, e principalmente perché abbiamo sempre voluto riconoscere l'operato dei registi giovani, che è quello che ci interessa di più, e farlo all'interno di un festival permette una visibilità diversa, ma anche la possibilità di attribuire qualche piccolo premio, qualche riconoscimento e un sacco di pubblicità. Semplicemente questa prima edizione è autoprodotta, autofinanziata dall'associazione, da Chinodromo, e a noi ci piace pensare che sia anche un po' il frutto del nostro lavoro e il nostro premio produttività. Questo festival ce lo siamo guadagnato con anni di volontariato nell'associazione e con questo tesoretto che, grazie a chi ha partecipato ai bandi e si è impegnato per portare l'associazione dove adesso è, ci ha permesso di fare un festival. Dall'anno prossimo parteciperemo a dei bandi solo come festival, semplicemente, però per quest'anno ci sembrava semplice fare in questo modo, anche perché ci siamo affacciati per la prima volta a organizzare un festival tutto nostro e non è stato semplice.